le notizie in 60 minuti. Fra le tensioni cogli manner di compromesso con una serie di sconfitte che in Sicilia scuote il Partito Democratico, oggi assemblea dei deputati con Renzi. Il premier rispolvera l'ipotesi di far dimettere Marino, lui non commenta, mentre Salvatore Buzzi, in carcere per l'inchiesta su mafia capitale, chiede il patteggiamento. Mercati ancora pesanti in assenza di una soluzione per la Grecia, attesa di nuovo per una serie di vertici, Eurogruppo giovedì e forse un summit straordinario dei leader domenica. Quasi 500.000 gli studenti chiamati da domani alla maturità, per la prima volta arrivano agli esami i licei musicali istituiti nel 2010 e questa sera la notte prima degli esami di Radio 24. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. I nostri contatti, effettogiorno@radio24.it, la nostra pagina sul sito www.radio24.it, se volete, durante la diretta, il numero di sms, il 349-238-6666. In apertura, dunque, torniamo sull'immigrazione, perché all'ombra dello scontro fra Italia e Francia di ieri, tra le tensioni sono stati sgomberati gli scogli di Ventimiglia, anche se non completamente, perché tra le 100 e le 150 persone rimangono là, mentre in Lussemburgo si riuniscono i ministri degli interni europei. Dunque iniziamo da qua, iniziamo dalla politica europea. Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. L'Europa è così cerca faticosamente una via d'uscita al problema immigrazione con un primo confronto diretto tra i ministri dell'interno della UE chiamati a discutere la proposta della Commissione di redistribuzione di 40.000 richiedenti asilo in due anni, di cui 24.000 provenienti dall'Italia. La Commissione, come sappiamo, vorrebbe che ciò avvenisse tra tutti gli Stati, ma alcuni come Spagna, Portogallo e Paesi Baltici si oppongono, chiedono una revisione dei criteri, mentre Francia e Germania questa mattina hanno presentato una proposta per un compromesso che metta assieme molti paesi, una proposta sulla quale dicono oggi non ci sarà un risultato ma solo un corridoio per un compromesso. Il testo, poi lo ricordiamo, verrà discusso formalmente dai capi di Stato e di Governo il 25 e il 26 giugno a Bruxelles. Ma ovviamente si parla anche di cosa sta accadendo a Ventimiglia con i respingimenti attuati dalla Francia. Su questo c'è stato un prevertice questa mattina tra il ministro Alfano, i suoi omologhi tedesco e francese e il commissario all'immigrazione Avramopoulos. Allora sentiamo che cosa ha detto Alfano. E anche noi abbiamo una posizione molto chiara. La scena di Ventimiglia è un pugno in faccia all'Europa ed è la prova che i migranti non vengono in Italia per stare in Italia ma per andare in Europa, ed è esattamente dalla scena di Ventimiglia che tutti devono trarre insegnamento. Io credo che quella scena lì sia stata veramente un pugno negli occhi a chi non vuol vedere. E dunque con la Francia la tensione resta sempre alta, nonostante poi la Francia, lo ricordiamo, sulla redistribuzione sia alleata con l'Italia, ma il ministro dell'interno francese Cazeneuve poco fa in una conferenza stampa ha chiarito la posizione del suo paese. Nessuna chiusura arbitraria delle frontiere, stiamo agendo nel rispetto delle regole europee, non c'è solidarietà senza responsabilità, e la responsabilità è il rimpatrio di chi non ha diritto asilo e l'apertura dei centri di identificazione in Italia per distinguere rifugiati dai migranti economici. Insomma, non si può mandare oltre frontiera, dice la Francia, chi non è stato identificato. Solo una volta identificati i migranti potranno essere riallocati. Questa è la posizione netta della Francia. Per il momento è tutto, a te Simone. E grazie Alessandra Schepisi per questi aggiornamenti. Ci sono da registrare di pochi istanti fa anche le dichiarazioni del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L'accoglienza è difficile, complessa e necessaria, dice, occorre solidarietà ed intelligenza, sono cose delle quali il nostro Paese è capace di fare uso. Ventimiglia dunque il luogo dove questa mattina sono avvenuti gli sgomberi, anche se non completamente. Sentiamo il servizio. Questa mattina è stato fatto uno sgombero e ci sono state tensioni. Registra qualche contuso, ma nonostante le operazioni della polizia, sono ancora tra i 100 e i 150 i migranti accampati a Ventimiglia, vicino al confine, sugli scogli del molo, ormai da 5 giorni. Molti profughi stamattina sono stati trasferiti da un pullman della Croce Rossa alla stazione, dove è stata adibita un'area di aiuti umanitari per circa 200 persone. Così il capo di gabinetto della prefettura di Imperia, Alessandra Lazzari. Presso la stazione ferroviaria di Ventimiglia hanno una forma di assistenza. Non c'è nessun centro di accoglienza, si tratta solo di soddisfare delle esigenze primarie. Queste persone sono libere di muoversi, di andare, probabilmente loro attenderanno momenti più favorevoli. Quelli rimasti al confine attendono e con loro la Croce Rossa. La portavoce Fiammetta Cogliolo. Abbiamo due ambulanze, i presidi, noi ci siamo ininterrottamente avanti e indietro su questo molo. Chi sta male ci chiama e noi ci siamo, ecco. Valeria Grandi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E anche tutto questo evidentemente entra nel dibattito politico che però si compone in queste ore inevitabilmente del dopo elezione, dell'andamento dei ballottaggi, che anche in Sicilia apre una serie di problemi per il governo e soprattutto per il Partito Democratico e in particolare per il segretario premier Matteo Renzi. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno, tornare il vero Renzi e riprendersi il partito, questo è quanto ha intenzione di fare il premier nelle prossime settimane. In un'intervista alla stampa spiega che non ha messo bocca sulle scelte di Paita in Liguria, Cassone a Venezia, De Luca in Campania, Moretti in Veneto, ma era scritto che Cassone avrebbe perso. Questo è un paese moderato, vince chi occupa il centro. Intanto qui a Montecitorio si prepara l'assemblea dei deputati Dem per eleggere il successore di Roberto Speranza e sarà presente anche Renzi, anche perché dopo la sconfitta di Cassone si prepara anche il confronto con la minoranza Dem. Per il premier le primarie sono in crisi e anche lancia un anatema sul sindaco di Roma Ignazio Marino: fossi lui non sarei tranquillo, il sindaco preferisce non rispondere, oggi ci occupiamo di cultura, dice alla presentazione della stagione delle Terme di Caracalla. Ma replica Matteo Salvini della Lega: se Renzi è anti primarie è delirio PD. E anche da Forza Italia Daniela Santanchè attacca: il PD sta implodendo. A te Simone. Grazie Elisabetta Fiorito per questi aggiornamenti. Renzi già proiettato, come sentivate, sul voto dell'anno prossimo in una serie di grandi città, tra queste, come avete sentito, non ha escluso Roma, avvalorando l'ipotesi che voglia far dimettere Marino, come era circolato sui giornali nei giorni scorsi. Il tutto mentre il rapporto su Mafia Capitale approda oggi sul tavolo del prefetto e ci sono novità anche dal punto di vista più strettamente giudiziario. È sul tavolo del prefetto Gabrielli la relazione dei commissari incaricati di fare luce sui bandi di gara e sugli altri atti del Campidoglio finiti al centro dell'inchiesta sul Mondo di Mezzo. Quasi 1000 pagine, molte dedicate agli appalti sui quali Mafia Capitale aveva allungato le sue mani. Nelle loro conclusioni gli ispettori avrebbero sottolineato che il reato di associazione mafiosa riguarda la giunta Alemanno e non quella guidata da Ignazio Marino. A nessun esponente dell'attuale maggioranza coinvolto nell'inchiesta viene infatti contestato il 416 bis e questo allontanerebbe l'ipotesi di uno scioglimento del comune per mafia. Gabrielli avrà comunque 45 giorni per valutare tutte le carte. Nel frattempo uno dei principali indagati, il boss delle cooperative Salvatore Buzzi, ha chiesto di patteggiare una condanna a 3 anni e 6 mesi di reclusione e 900 euro di multa, scontato il parere negativo da parte della procura. Sul fronte politico intanto le opposizioni continuano a chiedere le dimissioni di Marino, richiesta ribadita stamattina a Mix 24 anche da Alfio Marchini, che ieri per protesta si è autosospeso assieme ai suoi consiglieri comunali. Io credo che, secondo me, in modo oggettivo questa sindacatura è stata profondamente contaminata, non a livello di scioglierlo per mafia, ma sicuramente c'è una profonda contaminazione. Io non so se Marino è buono, direi piuttosto un gran furbone. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E a proposito di cronaca giudiziaria, c'è da segnalare questa presunta truffa al Servizio Sanitario Nazionale da 28 milioni di euro per presunte irregolarità nei rimborsi percepiti su 4.000 interventi che riguarda l'ospedale San Raffaele di Milano e la contestazione della Procura di Milano che ha chiuso l'inchiesta nei confronti di 9 persone. Maggiori dettagli appena ne avremo. Veniamo all'economia e alla Grecia, perché resta alta la tensione sui mercati in ore piuttosto intense per quanto riguarda le trattative. I prossimi appuntamenti sono altri summit, come vi raccontavamo già nei titoli: giovedì quello dell'Eurogruppo e a seguire l'Ecofin, e forse, questo riferisce il Financial Times, domenica un vertice straordinario dei capi di Stato, o meglio dei capi di governo e di Stato europei. Il punto però su come stanno andando i mercati, che ancora oggi sono negativi, con Deborah Rosciani. Deborah, buongiorno. Sì, buongiorno. L'incertezza sulla crisi greca naturalmente ovviamente inevitabilmente continua a penalizzare i listini europei, anche oggi tutti in calo. Adesso c'è un po' di miglioramento rispetto all'andamento della prima parte della seduta, che era stato molto più brusco, avevamo perdite che erano ben oltre il punto percentuale su quasi tutti i listini. Adesso qualcuno ha risollevato la testa, ma il segno meno ancora prevale. Parigi scende dello 0,6%, Francoforte meno 0,7%, Londra meno 0,6% e Milano ha il calo più pronunciato, sta perdendo adesso un punto percentuale. La volatilità si è fatta sentire prevalentemente, però, come sempre capita in queste circostanze, sul mercato obbligazionario. Abbiamo visto lo spread fra BTP e Bund mostrare segnali un po' preoccupanti per gli investitori, era ritornato sopra 160 punti base, adesso si è riportato il differenziale fra Italia e Germania sul titolo decennale sui livelli dell'apertura. Questa mattina, peraltro, ad appesantire il clima sono arrivati anche dei dati macroeconomici che non sono piaciuti tanto agli investitori. Un brutto dato è stato l'indice di fiducia tedesco ZEB, che a giugno è sceso a 31,5 punti dai quasi 42 di maggio, quindi un calo piuttosto violento, e diciamo che l'impasse di Atene ha anche messo in secondo piano la notizia positiva che è arrivata relativa al via libera della Corte Europea di Strasburgo al programma OMT, lo ricorderete, il cosiddetto piano antispread. Il piano è in linea con il diritto comunitario, ha detto la Corte Europea, ma questo appunto non è stato preso più di tanto in considerazione da parte dei mercati. Ultimo focus, e ricordiamo che stasera comincia la riunione della Banca Centrale Americana. È tutto, Simone. E grazie Deborah Rosciani per questi aggiornamenti del giudizio della Corte Europea sull'OMT. Torneremo a parlare in Europa 24. Una fuga di notizie in violazione dell'embargo per indebolire il messaggio del testo e attaccare il Papa. Così in ambienti vaticani si giudica l'anticipazione dell'enciclica finita nelle mani dell'Espresso. Il giornale ha pubblicato il testo italiano di una bozza di Francesco, che sarà presentata giovedì in Vaticano. Si tratta, ha fatto sapere il portavoce della Santa Sede, padre Federico Lombardi, non del testo finale. La regola dell'embargo resta in vigore. Laudato sì, questo è il titolo dell'enciclica dedicata alla cura della casa comune. Sono 192 pagine, 6 capitoli nei quali il pontefice denuncia l'iniquità del pianeta e chiede a tutte le persone di buona volontà di ascoltare il grido della terra e dei poveri, una conversione ecologica e una nuova solidarietà universale, rivolgendosi, caso piuttosto raro, in realtà a tutta l'umanità e non solo ai cattolici. Siamo all'esame di maturità che prende il via domani con 500.000 di candidati e soprattutto, no, non soprattutto, però c'è lo speciale di Radio 24, la famosa notte prima degli esami che ormai è una nostra tradizione. Abbiamo Federico Taddia in studio con noi. Federico, buongiorno. Ciao, eccoci qua. Effetto notte prima degli esami, potevamo chiamarlo così in effetti, speciale questa sera. E sai che anche gli studenti vorrebbero una fuga di notizie in queste ore dal MIUR. Sono andato a vedere quelli che sono le tototracce più gettonate in questi minuti. Al primo posto i ragazzi si aspettano una prova su Expo. Secondo argomento è l'ISIS, il terzo è l'immigrazione, si stanno concentrando su queste tematiche di attualità. Noi giocheremo con la notte della maturità, tanti maturandi racconteranno la loro esperienza, avremo anche una maturanda rom, una ragazza di origine rom che racconterà il suo esame, poi tanti testimonial dalla scrittrice Silvia Vallone al fisico Carlo Rovelli, ci sarà Beppe Servenini, Simone Cristicchi, Fabio Fazzi, insomma tanti nomi che ricorderanno il loro esame e daranno qualche consiglio giusto ai ragazzi. Marco Bianchi, lo chef, mi ha appena detto di mangiare tanti semi di girasole. Semi di girasole? Quindi possono iniziare già da questo pomeriggio. A che ora? Allora, noi saremo in diretta dalle 21 alle 24 per i semi di girasole, va bene qualsiasi ora. E grazie a Federico Taddia per questo racconto. Vi aspettiamo dunque stasera a partire dalle 21. Ci spostiamo sul calcio adesso. Questa sera l'amichevole Italia-Portogallo, un'amichevole attesa dopo la prova invece ufficiale dell'altro giorno contro la Croazia, ma gli occhi sono in queste ore concentrati in realtà sul mercato. Dario Ricci, posto che abbiamo avuto poco fa l'ufficializzazione dell'esonero di Inzaghi, che se lo gode a Formentera in queste ore, però insomma. Sì, però non si godrà il resto del contratto, perché l'esonero sembra un fatto solo formale, perché chiaramente il divorzio dal Milan era scontato, ma non in questa modalità, perché per 15 giorni Milan e Inzaghi hanno provato a dialogare. Il Milan, volendo risparmiare l'onta dell'esonero, ma anche volendo risparmiare il resto dell'ingaggio nei confronti di Super Pippo, si cercava una conciliazione che evidentemente non c'è stata, e allora là è arrivato il tweet e il comunicato molto secco, l'esonero di Pippo Inzaghi. Si apre quindi ufficialmente, manca appunto solo la comunicazione ufficiale, l'era di Siniša Mihajlović per un Milan molto attivo sul mercato. Dovrebbe arrivare sempre oggi il sì del Paris Saint Germain a liberare Zlatan Ibrahimovic, che sarebbe pronto quindi al clamoroso ritorno. Tutto fatto sembra per Jackson Martinez, l'attaccante colombiano del Porto, attualmente impegnato in Coppa America. Milan anche sulle piste di l'altro brasiliano Luis Gustavo dello Shakhtar Donetsk, e poi c'è quest'asta per Kondogbia, il centrocampista del Monaco. Milan in pole position, Inter che ha già avviato la trattativa tramite lo stesso Mancini, e Juventus che sta tramando nell'ombra. Quindi mercato animatissimo, speriamo che possano trovare spazio anche i nostri giovani talenti. Da domani scatta, Simone, l'Europeo Under 21 con i ragazzi di Di Biagio che provano a carezzare questo sogno. Hai visto mai che non sia poi un viatico per quello che dovrà, speriamo, affrontare anche l'Italia maggiore di Conte il prossimo anno in Francia. E grazie al nostro Dario Ricci per questi aggiornamenti. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade. Ci ritroviamo subito dopo e parleremo con due neo sindaci, Rosa Capuozzo del Movimento 5 Stelle, che diventa sindaco di Quarto. Siamo nel napoletano, e Quarto era un comune che era stato sciolto per infiltrazioni mafiose. E poi Maurizio Di Pietro, che è il neo sindaco di Enna e che ha sconfitto quello che sembrava il RAS indiscusso delle preferenze, Vladimiro Crisafulli. Tutto questo dopo il traffico. Bomi si quota su AIM Italia. Info su bomigroup.com. Vi presenta Effetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. A Ventimiglia, tra le tensioni, il tentativo di sgombero dei profughi da giorni sugli scogli. Mentre i ministri degli interni si riuniscono, è spuntata un'ipotesi di compromesso franco-tedesca. Dopo elezioni con una serie di sconfitte anche in Sicilia, scuote il Partito Democratico. Oggi assemblea dei deputati con Renzi. Il premier intanto rispolvere l'ipotesi di far dimettere Marino. Lui non commenta, mentre Salvatore Buzzi, in carcere per l'inchiesta su Mafia Capitale, chiede il patteggiamento. Quasi 500.000 di studenti chiamati domani, da domani, alla maturità. Questa sera lo speciale di Radio 24, notte prima degli esami a partire dalle 21. Maurizio Di Pietro, neo sindaco di Enna, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie e benvenuti a voi. Che ha sconfitto al ballottaggio quello che veniva considerato il RAS delle preferenze di Enna, Vladimiro Crisafulli. Senta una cosa, lei tra l'altro è stato anche appoggiato da Forza Italia, ma in realtà lei è uno del PD in sostanza. Io sono stato consigliere comunale e capogruppo del DS e poi del PD, dal quale sono stato espulso dalla dirigenza locale per insanabili divergenze di vedute sulla politica locale, insomma. E poi adesso, cioè, sulla figura insanabili sulla figura dello stesso Crisafulli, in realtà. Sulla figura della dirigenza locale, della quale Crisafulli è il leader indiscusso. E su cosa si basavano questi contrasti? Ma nacquero per una serie di documenti che insieme ad altri iscritti del PD facemmo sulla gestione della cosa pubblica ennese, in particolare del lato rifiuti, un'esperienza amministrativa che ha prodotto, secondo i consulenti, 200 milioni di euro di debiti, per esempio, e su altre divergenze di carattere politico-amministrativo, ovviamente. Senta una cosa, adesso che cosa intende fare? Allora, a parte, vabbè, lo dobbiamo dire, perché insomma, non lo si fa per prendere in giro Crisafulli, però la frase che lo storico leitmotiv di Crisafulli era: a Enna io vinco col maggioritario, col proporzionale e anche col sorteggio. Evidentemente in questo caso non è andata così. Come intende muoversi? Io intendo muovermi in coerenza con la linea politica che ho avuto anche quando ero nel PD e nei DS in precedenza, cioè cercando di riformare l'amministrazione locale, i servizi locali e in genere quelli del territorio in maniera conforme alle aspettative dei cittadini. La mia priorità insomma sarà questa, ridare ad Enna un'amministrazione sana, competente, che non produca crack finanziari e che sia competente ed onesta. Mi dice una cosa, dato che la candidatura della persona che lei si è opposta al ballottaggio è stata una candidatura direi avversata dalla segreteria nazionale del Partito Democratico, ma in realtà molto sostenuta dalla dirigenza locale del Partito Democratico, lei pensa che si possa, questo partito dal quale pure è uscito, appoggiare a lei per ricostruire qualcosa in città? Questo non lo so, non dipenderà soltanto da me evidentemente, la dirigenza nazionale l'ha osteggiata, ma insomma l'ha osteggiata fino a un certo punto, ha consentito che la candidatura si facesse con un simbolo palesemente taroccato, insomma era il simbolo del PD al quale hanno cambiato una lettera, anziché la P c'era la E, cioè Enna Democratica, il ramoscello d'ulivo è stato spostato da una parte all'altra, i colori sono gli stessi, quindi insomma diciamo non ho notato una particolare fermezza della dirigenza nazionale. Quella regionale invece è stata palesemente a supporto del candidato Crisafulli, è venuto il segretario regionale ad aprire la campagna elettorale, insomma, quindi non è solo un problema di dirigenza locale, nel senso di dirigenza ennese evidentemente. C'è un problema di dirigenza ennese, ripeto, insomma, lei comunque è disponibile ad aprire un dialogo col suo ex partito, immagino. Ma io sono disponibile ad aprire un dialogo soprattutto per le questioni che interessano la mia città, della quale ho l'onore e l'onere adesso del governo, di aprire un dialogo con chiunque per risolvere i problemi di Enna. Poi le questioni di carattere politico, chissà, io sono stato eletto con 4 liste civiche a sostegno, che insomma adesso c'è la notizia che mi ha sostenuto Forza Italia, io sono stato sostenuto da 4 liste civiche, 2 di chiara ispirazione di centrosinistra, una nella quale c'è qualche rappresentante di Forza Italia e qualche rappresentante dell'ex nazionale, dell'ex Alleanza Nazionale, e una lista un po' di centristi, quindi insomma è un'esperienza civica quella che ha portato alla mia elezione. La ringrazio, grazie a Maurizio Di Pietro, neo sindaco di Enna, e come diciamo sempre ogni volta ci sono delle elezioni amministrative, in bocca al lupo per il suo lavoro, e come sempre di qualsiasi parte politica sia. Adesso parliamo di Quarto, siamo nel Napoletano, è un comune che è stato sciolto per infiltrazioni mafiose nel 2013, nella campagna elettorale del 2012 2 candidati sono stati arrestati in corso di elezioni. Saluto Rosa Capuozzo, il Movimento 5 Stelle, che è il neo sindaco di Quarto dopo il ballottaggio che si è svolto nel fine settimana. Buongiorno e benvenuta Capuozzo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Gli in bocca al lupo glieli faccio dopo per il suo lavoro. Ho detto bene, sono 2 candidati sindaci che furono arrestati nel 2012, no? No, 2 consiglieri. Due consiglieri. Sì. Ci racconta, al di là della soddisfazione per la vittoria, che immagino che ci sia, e questo è evidente, della soddisfazione perché i cittadini hanno scelto lei, che cosa intende fare? Allora, a parte, sì, come dice lei, la soddisfazione fondamentale, perché è stato un plebiscito che sentivamo nell'aria ma non ci aspettavamo, quindi è stata una soddisfazione raccolta nel tempo, negli ultimi 3 anni di attivismo. Quello che intendo fare nel comune di Quarto è innanzitutto riscattarlo da quello che è, come si è presentato negli ultimi anni, un comune esclusivamente legato alla camorra, quindi noi riscatteremo questa immagine, ma io credo che la gente, già votando al 71% il Movimento 5 Stelle, che si presenta come una forza nuova non legata ai vecchi legami, già si è riscattato questa immagine. E poi quello che faremo sul territorio, noi porteremo avanti i nostri progetti. Quarto è un comune difficile, ha una lunga storia di degrado sociale, noi non abbiamo i servizi essenziali, non abbiamo l'illuminazione, in questi giorni ci sono stati, sono caduti alcuni pali della luce, sono stati tagliati e non sostituiti, abbiamo delle strade non asfaltate, abbiamo una viabilità disastrosa, quindi quello che inizieremo a fare, quello che ci chiede la gente sono i diritti essenziali. Dice tornare alla normalità, insomma, esatto, tornare a vivere in un posto normale, ok, questo è l'obiettivo principale. Immagino che per fare questo ci vogliano dei soldi, sindaco, e quelli scarseggiano, dove li ricavate? Alcuni ci appoggeremo molto ai fondi europei nella nuova programmazione, soprattutto per quello che riguarda ad esempio l'illuminazione, per l'illuminazione a LED con l'energia rinnovabile e alternativa, o anche semplicemente per i pannelli fotovoltaici che utilizzeremo su tutti i palazzi di proprietà del comune. Quindi per queste cose qui ci rivolgeremo alla comunità europea, per gli altri utilizzeremo ovviamente i fondi del comune. Utilizzerete fondi del l'ordinaria amministrazione. Non è vero, senta, che le casse sono vuote, le chiedo questo: c'è un punto che riteniamo sempre fondamentale e ne parliamo spesso, ne abbiamo parlato anche con amministratori locali romani, assessori e così via. Il tema è questo: quando ci sono infiltrazioni di criminalità organizzata in un comune, in genere la parte politica è solo una parte, appunto. A volte l'infiltrazione, anzi spesso, si annida nei gangli dell'amministrazione. Lei entra in questa amministrazione e si trova, come dire, quello che c'è dal punto di vista degli amministrativi. Come intende regolarsi? Ma innanzitutto noi nel momento in cui entreremo vedremo se ci sono delle criticità in qualche parte dell'amministrazione che non funziona, ovviamente sarà soltanto un'analisi politica la nostra e anche tecnica per quel che riguarda il funzionamento della macchina comunale, e in quel caso sceglieremo le criticità e faremo in modo che la macchina comunale inizi a funzionare di nuovo, perché come lei dice, ed è vero, una giunta che non è in grado di operare senza una macchina comunale funzionante, questo è fondamentale. Però io mi riferivo a un aspetto ancora più specifico. L'aspetto a cui si riferisce comunque di pertinenza del magistrato, della giunta comunale. Sicuramente i magistrati a quarto hanno fatto e stanno svolgendo il loro lavoro. La ringrazio, grazie a Rosa Capuozzo, neosindaco di Quarto, e come dicevo appunto, in bocca al lupo per il suo lavoro. Noi ci fermiamo, c'è una pausa, ci ritroviamo per l'aggiornamento dai mercati e poi subito dopo parleremo con un altro sindaco, ma in questo caso non è un neosindaco, è il sindaco di Brennero, perché in queste ore vi abbiamo raccontato molto di quello che sta succedendo a Ventimiglia, e però al Brennero sta sostanzialmente succedendo la stessa cosa, gente che arriva con i treni, che vuole passare il confine, vuole entrare in Austria, non riesce a passare, si ferma o al Brennero o a Bolzano. A tra poco. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Sgombero a Ventimiglia dei profughi da giorni sugli scogli, ma 100-150 rimangono ancora là, mentre i ministri degli interni si riuniscono, spunta un'ipotesi di compromesso franco-tedesca. Indagine sul San Raffaele, ipotesi di truffa sui rimborsi per 28 milioni di euro. Tra le persone coinvolte ci sarebbe anche Alberto Zangrillo, il medico di Berlusconi. Dopo elezioni con una serie di sconfitte anche in Sicilia, scuote il Partito Democratico, oggi assemblea dei deputati con Renzi. Mentre il premier rispolvera l'ipotesi di far dimettere Marino e lui non commenta, mentre Salvatore Buzzi, in carcere per l'inchiesta su Mafia Capitale, chiede il patteggiamento. La borsa. Bomi si quota su AIM Italia. Info su bomigroup.com. Vi presenta Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. La vicenda del San Raffaele, che già vi accennavo nei titoli e che vede indagato anche il medico personale di Silvio Berlusconi, Alberto Zangrillo. Raffaella Calandra, buongiorno. Sì Simone, buongiorno. È una truffa al Servizio Sanitario Nazionale da 28 milioni, una truffa sui rimborsi ricevuti per 4.000 interventi chirurgici. La Procura di Milano ha chiuso le indagini per 9 persone e si prepara quindi a chiedere il rinvio a giudizio per dirigenti e primari dell'ospedale fondato da Don Verzì e già al centro negli anni scorsi, come ricorderanno i nostri ascoltatori, di varie indagini sul suo pesante crack e poi sul suicidio dell'ex vicepresidente Mario Cal. Ora una nuova tegola giudiziaria che coinvolge tra gli indagati, come ricordavi, anche il medico personale di Berlusconi Alberto Zangrillo, nonché l'amministratore delegato del gruppo Nicola Bedin. Tra il 2011 e il 2013, secondo l'accusa, sarebbero stati eseguiti interventi chirurgici violando le norme sul numero minimo di operatori, anestesisti e di specializzandi che devono essere presenti in camera operatoria. Secondo l'autocertificazione dell'ospedale tutto era invece regolare e così sarebbero ricevuti, sarebbero riusciti ad ottenere i 28 milioni di rimborsi. Contestazioni invece per la legge 231 vengono mosse anche proprio all'istituto, quindi una nuova vicenda. Staremo a vedere poi in sede di udienza preliminare quali saranno le valutazioni del giudice e quando anche quelle della difesa. Simone. Grazie a Raffaella Calandra per questi aggiornamenti. Come si diceva poco fa, abbiamo parlato a lungo e stiamo continuando a parlare di Ventimiglia, dove questa mattina quelle immagini hanno colpito tutti i migranti o profughi, gli immigrati, fermi sugli scogli per giorni in attesa di passare il confine con la Francia, e poi questa mattina lo sgombero tra le tensioni. Ci sono ancora persone che rimangono là su quegli scogli, però ovviamente i profughi o migranti provano a passare anche da altre parti, per esempio dal Brennero per arrivare in Austria. Saluto Franz Kompacher, che è il sindaco di Brennero. Buongiorno. Pronto? Kompacher, ci sente? No. Evidentemente è caduta la linea, abbiamo qualche problema di comunicazione che spero evidentemente che non dipenda dalla lingua. Proviamo a vedere se riusciamo a recuperare Franz Kompacher, il sindaco di Brennero, per farci raccontare qual è la situazione, perché anche ieri abbiamo visto qualche immagine circolare che arrivava proprio da Brennero e che arrivava anche da Bolzano, dove ci sono molte persone in attesa e ferme nelle stazioni. Ce l'abbiamo, Franz Kompacher, sindaco di Brennero, eccoci, c'è? Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno, qual è la situazione da voi? Ci racconti un po'. Ma attualmente è abbastanza tranquilla. Noi abbiamo adesso, negli ultimi giorni, abbiamo una media di 50-60 profughi che vengono respinti dall'Austria. Abbiamo avuto 2 settimane fa una situazione critica, quando le frontiere erano chiuse per via del G7, che soprattutto le frontiere tedesche erano chiuse, venivano controllate. E allora c'era una situazione che c'erano anche intorno ai 150-200 che venivano respinti. E allora la situazione era un po' critica, però al momento è abbastanza tranquilla, diciamo. Siamo nella media, perché... Senta, sindaco, vengono respinti e poi dove vanno? Sì, praticamente vengono riportati dalla polizia austriaca e vengono consegnati al Brennero, alla polizia italiana, al commissariato, che praticamente prende i dati e poi li rilascia, e poi in gran parte, diciamo, ripartono col treno. E magari, e magari vanno verso Ventimiglia a questo punto, no? Vabbè, insomma, adesso... Questo non penso, cioè qualcuno poi ritenta, diciamo, nei giorni seguenti qualche altro tentativo. Però sicuramente, diciamo, in quel periodo che, diciamo, la frontiera tedesca era chiusa, probabilmente qualcuno ha cercato di arrivare via Francia in Germania o di andare al nord. Senta, di che nazionalità sono prevalentemente, sindaco, le persone che arrivano? Ma diciamo, nell'estate scorsa c'era tanta gente siriana, e poi adesso ho la sensazione che prevale, diciamo, la gente che viene dall'Africa. Che viene dall'Africa del Nord, l'Eritrea, Etiopia e così via. Sì, quindi le persone che abbiamo visto ultimamente, evidentemente, sì. sbarcare sulle nostre coste. Sì, sì. Quindi specificatamente da voi non c'è una situazione critica, vengono rilasciati e poi loro da Brennero sostanzialmente se ne vanno. Sì, se ne vanno. Noi abbiamo ben un centro di accoglienza, diciamo, dove prendono un'assistenza, prendono un pasto caldo, prendono qualcosa da vestire, prendono informazioni, prendono qualcosa da bere, e diciamo in quei momenti critici avevamo anche, diciamo, la possibilità di dare un pernottamento. Però come detto, al momento è abbastanza tranquillo, c'è una situazione come abbiamo ogni giorno, che ci sono quei 60-70 persone che vengono respinti dall'Austria o dalla Germania, dall'Austria più che altro. E hanno margini, ce lo dica, giusto per capire, per passare in altro modo? Ma in altro modo loro, cioè in gran parte loro tentano col treno, no? Più che altro loro tentano coi treni internazionali, e diciamo anche lì hanno già trovato degli ostacoli, perché ci sono le ronde miste, diciamo, cioè i controlli che vengono fatte da pattuglie miste, cioè di tre poliziotti, uno austriaco, uno barese e uno italiano, e allora si cerca già di farli scendere un sì. po' prima, perché chiaramente anche in Austria e Germania, diciamo, non li possono accogliere tutti. Certo. Dei, diciamo, dei momenti critici, perché proprio il nostro sì. comune gemellato che sta in Baviera mi hanno telefonato adesso che loro hanno la palestra tutta occupata di profughi. Quindi anche in Baviera. La ringrazio, grazie a Franz Compacer, sindaco di Brennero, per quella che è stata una vera e propria cronaca. Traffico.